Gigi D'Agostino. Buon Natale. La vostra voce 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Maybe don't you go. Capodanno, il 31 dicembre, ci vediamo a Rimini, discoteca Altro Mondo. Discoteca Altro Mondo. Io comincio a suonare alle ore 20. Io comincio a suonare alle ore 20, se arrivi tardi tiro i denti. No, è sempre solo per far la rima, perché, capito? È perché io ogni giorno mangio pane e poesia. E dopo questa me ne vado via. The children woke up and they couldn't find them. They left before the sun came out that day. They just drove off and left it all behind them. But where were they going without ever knowing the way? Giardino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Mi piace guardarti giocare. Mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi. E mentre costruisce la nostra cattedrale, Gigi D'Agostino ci augura buon Natale. Mi piace sentire le tue lacrime sul mio petto quando ci perdiamo ai nostri abbracci. Sentire quel pianto è una stretta al cuore. Quanto amore in quelle mani quando si stringono le mie. Riesco solo a non dire niente quando vorrei dirti tutto quello che siamo e quando ci stiamo. Non so cosa vuol dire amore. Forse vuol dire sentirsi vivi. Vuol capirlo? Forse vuol capirlo? Forse può capirlo e spiegarlo a solo chi non ha amato. Perché chi ama non lo sa spiegare.

d'Agostino. Musica che unisce. Ciò che penso è molto intenso. Al nuovo buio io sono propenso, perché dal buio che sono nato e grazie a lui ho camminato. Luce che si riproduce grazie a quel buio che la conduce, esce dal buio e ci conduce, sembra banale ma è reale. Luce che si riproduce grazie a quel buio che la conduce, esce dal buio e ci conduce, sembra banale ma è reale. Lunedì 25 dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona alla discoteca Roncaccio, Bizzarrone. Como. Ci vediamo lì. Il cammino di Gigi D'Agostino. L'unica cosa che realmente si sa della natura umana è che cambia. E il cambiamento è la sua unica qualità su cui possiamo contare. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Benvenuti nel mondo che non c'è. Sono Gigi D'Agostino e volevo salutare la mia mamma e mio papà perché non li vedo quasi mai. Volevo risalutare la mia mamma e mio papà, perché non li vedo mai. No, metti che prima non hanno sentito, allora adesso. Se vi siete messi all'ascolto, volevo... Mamma, papà, io volevo salutarvi, sono quel ragazzo lì che avete fatto un po' di anni fa. Io adesso suono un po' di musica. attimo di attenzione. Martedì 26 dicembre, Santo Stefano Elettronico, discoteca 2 a Cigliano, vicino a Torino. Ciao, sono Gigi D'Agostino. Ora, per fare la rima. Ah, ecco. È il cammino del Gigi D'Agostino. Vediamo a Rimini, discoteca Altro Mondo. Io comincio a suonare alle ore 20. Ti amo. Sono perduto. È tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca.

cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O.

Gigi D'Agostino, una musica infinita che racconta la vita. Benvenuti nel nostro giardino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. Costruisce la nostra cattedrale. Gigi D'Agostino ci augura buon Natale. Grazie e auguri.